Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e bentrovati con la nostra consueta rassegna stampa europea. Un buon sabato mattina da Sergio Nava. Sono soprattutto le elezioni europee e la tragedia, la drammatica tragedia di Lampedusa a tenere banco questa settimana sui giornali, sui quotidiani comunitari, o meglio di questo nostro grande continente. Partiamo col primo tema, che è quello delle elezioni europee 2014, perché ad occuparsene sono stati soprattutto i giornali e i settimanali francesi, perché in Francia è accaduto che c'è una grandissima minaccia di un voto di protesta che addirittura porterebbe il Front National di Marine Le Pen ad essere il primo partito francese, scrive Le Monde. Sfruttando l'opposizione all'austerità e la paura dell'immigrazione, gli euroscettici potrebbero confermare la loro crescita alle elezioni europee di maggio e condizionare le politiche dell'Unione. Le Monde fa una panoramica sui partiti euroscettici o comunque più ostili all'Unione Europea. Ricordiamo però che Le Nouvel Observateur pone in primo piano, elezioni europee 2014, 24% il sondaggio che fa paura. Per la prima volta un sondaggio piazza il Front National in testa alle intenzioni di voto in Francia, dice appunto Le Nouvel Observateur. Il partito d'estrema destra guidato da Marine Le Pen otterrebbe il 24% dei voti, 2 punti in più rispetto all'UMP e 5 in più rispetto al Partito Socialista. Ma torniamo a Le Monde, che appunto faceva questa bella panoramica, questa interessante panoramica sui partiti euroscettici. Parla Le Monde dell'affermazione del partito antieuro in Germania, che ha sfiorato l'ingresso al Bundestag, parla della crescita dell'estrema destra in Austria con la FPÖ e anche degli eurofobi di Nigel Farage, lo UK Independence Party, e scrive: il presidente del Partito per l'Indipendenza del Regno Unito, lo UKIP, Nigel Farage, ha fatto delle elezioni europee il principale obiettivo per imporsi nel Regno Unito e cambiare il rapporto di forza a Bruxelles. Questa è anche la priorità dei veri finlandesi e del Fronte Nazionale francese, così come di Beppe Grillo in Italia o di Syriza, il principale partito di opposizione in Grecia. Tutte queste forze politiche sperano appunto di raccogliere voti contro che si esprimono più facilmente in questo genere di elezioni. Le europee sono tradizionalmente favorevoli ai partiti periferici, spiega il politologo Dominique Reynier. Cambiamo però ora tema e andiamo a parlare di Lampedusa. Lampedusa, che è stata la tragedia di Lampedusa, è stata ampiamente riportata sui giornali europei. Partiamo da The Morgen, un editoriale scritto da Hein De Haas, che titola Il prezzo del controllo. La chiusura delle frontiere esterne dell'Unione Europea è la vera causa della tragedia di Lampedusa. L'Europa dovrebbe fornire canali all'immigrazione legale e riformare le sue norme sull'asilo, scrive. È un tipo di migrazione, scrive Hein De Haas, alimentato soprattutto dalla costante domanda di manodopera a basso costo in campo agricolo, nel settore dei servizi e in altri settori informali. Una cospicua minoranza di questi migranti, formata da profughi in fuga da violenti conflitti nelle rispettive patrie d'origine. Fino a quando non si metteranno a punto canali più legali per l'immigrazione e finché i profughi si vedranno rifiutare l'accesso alle procedure d'asilo, è verosimile che il grosso dell'immigrazione continuerà a svolgersi in modalità clandestine e illegali. Le rotte migratorie, conclude, sono diventate più lunghe e più pericolose e costringono i migranti a fare ancora più affidamento sui trafficanti di esseri umani. Dall'88 sono morte almeno 19.000 persone, ma questa cifra si basa soltanto sui cadaveri, pensate, che sono stati recuperati. Anche Die Welt, il quotidiano tedesco Die Welt, parla della strage di Lampedusa. La Germania rifiuta di accogliere altri rifugiati. A dirlo è appunto una fonte del governo tedesco, perché la Germania offre, spiega il governo, già rifugio al massimo delle persone, 65.000 richiedenti asilo, mentre l'Italia ne ha accolti nel 2012 solo 15.000. E anche The Times of Malta, il principale quotidiano maltese, dedica un articolo al dramma dell'immigrazione, al dramma di Lampedusa, e riporta la visita di José Manuel Barroso nell'isola siciliana. Barroso, scrive, ha lanciato un appello per la condivisione del peso dell'immigrazione per arrivare a una posizione comune europea per combattere i flussi di clandestini. Cambiamo ora tema, però restiamo focalizzati sull'Europa e sull'Eurozona in particolare, perché The Wall Street Journal Europe riporta i dubbi del Fondo Monetario Internazionale sul bailout della Grecia. Quasi un terzo dei membri del Fondo Monetario Internazionale ha avanzato seri dubbi sull'efficacia del bailout della Grecia nel 2010, criticando il piano per la mancata cancellazione del debito e per aver imposto misure dolorose ai greci senza chiedere nulla ai creditori europei, scrive il Wall Street Journal, che aggiunge: alcuni dissidenti dell'FMI credono che all'epoca gli interessi dell'Europa abbiano prevalso su quelli della Grecia, che dal 2009 ha visto la sua economia contrarsi di un quinto e il tasso di disoccupazione raggiungere il 28%. Restiamo a parlare di economia, però concentriamoci ora sull'Irlanda. C'è un interessante articolo del Financial Times, il quotidiano della City, che racconta della ripresa a due velocità di Dublino. Allora, la capitale, Dublino, migliora, l'economia torna a crescere, la periferia, l'Irlanda rurale, invece, va male. Scrive Jamie Smith, a fine anno Dublino tornerà a finanziarsi sui mercati, ma fuori dalle città la crescita è ancora lontana, i lavoratori non qualificati continuano a emigrare in massa. L'economia è fragile, ci sono segnali di una ripresa a due velocità, con città come Dublino, Cork e Galway che migliorano e aree rurali ancora stagnanti. È interessante anche la storia che racconta Jamie Smith, la storia di una squadra di calcio, il Milford Gaelic, che ha appena vinto una coppa e che purtroppo ha perso il 41esimo calciatore dal 2008 perché sono tutti emigrati. Molti sono emigrati in Australia o in Canada, altri a Dublino, che finalmente sta dando qualche segnale di ripresa economica. È molto interessante questo articolo del Financial Times. E restando in Irlanda, l'Irish Times e l'Irish Independent raccontano invece di come un referendum abbia, pensate, salvato il Senato, il Seanad Éireann, la Camera Alta del Parlamento. 51,7% dei votanti hanno detto manteniamo il Senato, e quindi la misura del Premier Enda Kenny, chiudere il Senato irlandese per risparmiare 20 milioni di euro l'anno, non è passata. La vicenda dimostra che il popolo non è incline ad accettare l'invito populista del governo a licenziare 60 politici, così commenta appunto l'Irish Times. Ci spostiamo ora nell'est Europa perché abbiamo una interessante rassegna che ci porta dalla Croazia fino alla Polonia. Partiamo con la Croazia, che ha fatto il bilancio dei primi 100 giorni nell'Unione Europea. L'ingresso è stato il 1° di luglio, a 100 giorni dall'adesione il quotidiano Vecerni List stila un primo bilancio che però è piuttosto negativo. Il quotidiano conservatore critica la minaccia di sanzioni in risposta alla legge Perkovic sul mandato d'arresto europeo, sottolinea che invece di ottenere credito a buon mercato la Croazia si è vista declassare alla categoria speculativa dalle agenzie di rating. Non ci sono più tasse doganali, ma i prezzi non sono calati e intanto il regime di visti ha messo in fuga migliaia di turisti. L'unico aspetto positivo dell'ingresso in Europa, sottolinea il quotidiano, è rappresentato dai passaggi alle frontiere più facili e dalle tariffe telefoniche meno care. Dalla Croazia ci spostiamo in Polonia, in questo tour tra i giornali dell'est Europa. Rzeczpospolita, quotidiano polacco, continua il grande esodo dalla Polonia. Questo ci riaggancia un po' anche al discorso irlandese. Il numero di polacchi, scrive il giornale, che vivono all'estero è in aumento per il terzo anno consecutivo. Alla fine del 2012 i residenti lontano dal paese hanno raggiunto i 2,13 milioni. Nel 2012 sono emigrati 70.000 polacchi in più. Tra gli espatriati 1,4 milioni hanno meno di 40 anni. Restiamo in Polonia perché c'è un discorso che si collega anche a questo tema dell'emigrazione, perché la Dziennik Gazeta Prawna di Varsavia denuncia come la Polonia, nonostante la crescita economica che sta registrando, sta diventando un paese per anziani. Entro il 2035 la Polonia potrebbe ritrovarsi con 2,5 milioni di abitanti in meno e con un'età media molto più elevata, una prospettiva che minaccia la stabilità economica e il ruolo del paese in Europa. Secondo i dati dell'Ufficio Centrale di Statistica, nei primi sei mesi del 2013 il paese ha registrato 183.000 nascite contro 202.000 decessi. Se questa tendenza proseguirà, la popolazione polacca diminuirà quest'anno di 40.000 abitanti. E gli sviluppi demografici, scrive il giornale, cambieranno anche l'equilibrio dei poteri nell'Unione Europea, il cui sistema di voto tiene conto della popolazione dei paesi. La Polonia non sarà l'unico paese interessato. E fa il confronto con la Spagna. Nel 2050 la Polonia avrà 34 milioni di abitanti e contro i 48 milioni spagnoli. Chiudiamo la nostra rassegna nell'est Europa con le tensioni intorno alla Lituania, presidente di turno dell'Unione Europea. Il quotidiano lituano Delfi racconta appunto di questo embargo commerciale da parte della Russia, l'annuncio da parte delle autorità sanitarie russe della necessità di introdurre restrizioni sulle importazioni di prodotti alimentari lituani a causa dell'indebolimento dei controlli sanitari nel paese. Un annuncio che ha scatenato il caos appunto in Lituania, e poi spiega che questo blocco in realtà, come si sa, è uno strumento per punire Vilnius per il suo sostegno all'avvicinamento delle ex repubbliche sovietiche all'Unione Europea. Era questa anche l'ultima notizia di questa nostra rassegna stampa europea. Ancora un buon sabato mattina da Sergio Nava. Rassegna stampa Europa in collaborazione con Euronet Plus.